Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Viva la Vida, Frida Kahlo e Chavela Vargas, di Valeria Moretti con Francesca Bianco ed Eleonora Tosto, alla chitarra Matteo Bottini, regia Carlo Emilio Lerici. Viéndolo desnudo, se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos, terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente. Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela, antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer entre todas ellas, yo, quisiera siempre tenerlo en brazos como un niño recién nacido. Anche tu, vero? Sei andato via con gli altri. Ma da chi sei andato, Diego? Chi? Chi c'è? Chi c'è là in fondo? Non vedo. Chi c'è? Chi è? Chavela, amica mia, sei proprio tu, vero? Che giorno è oggi? No, no, no, no, no, non dirmelo, ti prego, no, non lo voglio sapere. Tu sei venuta perché lo sai, vero? Tu sai che cosa mi accadrà domani. Ah, io no, non voglio parlare di questo, ti prego, no, no, non voglio. Senti, lo sai? Mi sembra di sentire il respiro di Diego qui vicino a me. Vieni, vieni vicino a me, lo senti anche tu. Ah, Diego è tutto per me, sai, sì. Lui è stato il mio inizio, Diego è il pittore, lui è mio padre, mia madre, è mio marito, l'amante, l'infedele, Diego. Diego sono io. Diego è l'universo. Lo senti? Lo senti questo nome? Diego. Diego è il nome dell'amore. Nel dipingerlo, lo sai che io l'ho messo qui, in mezzo alla mia fronte, ho attraversato orizzonti e paesaggi dentro un suo abbraccio. Lo vedi, Chavela? Io sono piccola, vicino a lui, lui è enorme. Ecco, la differenza fra noi due è tutta qui. Lui è pesante come un grosso animale e io ho bisogno, tu lo sai, di qualcosa di solido su cui appoggiarmi. Ti sembrerà strano, vero? Ma io adoro il suo pancione. Sì, lo adoro. Solo che ogni volta che lui esce da quella porta, lui viene stregato dalla luna. La luna, no. Lui è stregato dalle donne. Ma sei sempre lì, Chavela? Mi stai ascoltando? Sì. E lui, sai, Diego? Sì, lui è il mio bambino. Sì, sono io, sai. Sono io che l'ho generato con cellule antiche che si sono trasformate in lui. Sono io. Io che l'ho partorito. Davvero, sai, sì, ma no, devi credermi, è proprio così. Ah, sapessi che voglia avrei anche ora di tenerlo tra le mie braccia, di cullarlo, di stringerlo forte, sempre più forte. E potrei persino soffocarlo, credimi, sì, potrei addirittura ucciderlo. Ma si vede che sono messicana, vero? Per noi messicani il delitto è un atto, come dire, quasi naturale, ci piace. Sarà perché, come dire, il delitto è comunque un modo di entrare in relazione. Sì, è proprio come la confessione nella chiesa o nella festa, in piazza. Ah, quando l'ho sposato, hanno detto che io sembravo una colomba, sì, e lui un elefante. Un elefante comunista! Oh, Diego, Diego, Diego, io ricordo benissimo, era vestito all'americana e io invece avevo chiesto alla cameriera di prestarmi una delle sue gonne lunghe e di darmi anche la sua blusa. Poi ho staccato un bocciolo di buganviglia del giardino e me lo sono messo qui, in mezzo ai miei capelli. Oh, mi piaceva da morire essere vestita come una donna dei Tehuantepec. È il mio costume, c'è bisogno di un costume per affrontare la scena del mondo, non ti pare? E questo è il mio costume. Oh, la donna e ha gridato a tutti: guardate questi due specchi, queste sono le gambe che ora Diego ama al posto delle mie. E poi è uscita ridendo, trionfante. Io ho rivisto Diego solo due giorni dopo, quando si è deciso a tornare a casa. Era stato con lei. E ora? E ora con chi è ora? Sotto quale finestra è andato a cantare come un lupo affamato? Forse... forse sotto quella di Cristina. Sì, hai capito benissimo. Di Cristina, mia sorella. Lo sai? Lo sai che gli ha dato un figlio? No, no, no, no, no. Stai tranquilla, Ciavela, io non piango, no, io non piango. Bisogna essere molto forti, molto più che forti. Devi essere una vera donna. Devi essere muy mujer per sopportare una cosa come questa. No, no, no, no, no, non preoccuparti, non importa, a me non importa. Io non ce l'ho con lei. Ogni volta che mi mettono la maschera del cloroformio, c'è la mano di Cristina a tenere la mia. E sarà ancora la sua mano che cercherò la prossima volta che io starò male. Adesso io non posso fare niente. No. Io posso solo aspettare. Aspettare che lui ritorni. L'amore, in fondo, non è altro che attesa. Che mi fa male, ma io e te possiamo bere tanto da vedere tutti gli uomini di una taverna finire sotto il tavolo, è vero? Come due veri mariachi. Ma tu perché bevi tanto, amica mia? Tu sei giovane, sei bella e hai una voce come nessuna al mondo. Il tuo non è un canto, è qualcosa che attraversa il dolore e il piacere. Quando tu canti, il tempo non esiste più. Tomate questa bottiglia conmigo. E nell'ultimo trago nos vamos. Quiero ver a chi sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil es tratar de olvidarte y que sienta que ya me quieras. Nada me ha enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Esta botella conmigo, en el último trago me dejas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después amigo, e nell'ultimo trago non stavo. Una ama ancora Diego e l'altra no. In tutte e due si vede il cuore. Una ha il cuore intatto, intero, e l'altra un cuore aperto. Io le ho legate insieme con una lunga vena di sangue attorcigliata, ma la mano di una delle due Fride impugna una pinza. Hai presente la pinza che usano i chirurghi? Ecco, quella pinza interrompe lo scorrere del sangue tra di noi e sopra di loro c'è un cielo senza sole. Io ho dipinto anche la mia nascita e la mia morte, ma come farei a vivere senza l'assurdo e la possibilità di sparire? Cos'è che dite? No, non capisco. Cosa dicono? Surrealista? No. Io non sono surrealista, no! Io vengo da un altro pianeta. Io ancora vedo orizzonti dove voi disegnate confini. Vedi, amica mia, ora ti spiego. Il surrealismo è, come dire, è la sorpresa. È di trovare, per esempio, nell'armadio un leone al posto delle camicie. Questo è il surrealismo. Io disegno semplicemente la mia realtà. Sì, la mia realtà, la realtà che ho dentro la mia testa. Ho dipinto anche i miei bambini morti. I miei bambini morti. Ma perché? Perché ti giri dall'altra parte? Ma cosa? Tu che non conosci il dolore, che non hai mai pianto, non vuoi vederli? Ti impressionano? Io ho perso i miei bambini, lo sapevi, vero? I medici dicono che non potrò più averne. Dicono che il feto non ha preso forma dentro di me, che si è come disintegrato dentro il mio utero. E il dottore allora mi ha regalato un feto in formalina. Lo conservo, sai? Lo conservo qui nella mia stanza, lo conservo... Io non me lo ricordo io. Io non ricordo dove l'ho messo, forse... No, io non lo so. Ma dove l'ho messo? Io non... Dove ho messo il mio bambino? Dov'è il mio bambino? Non lo so. Lo sai, amica mia, chi sono adesso i miei bambini? Le scimmie e i pappagalli e le piante del giardino che io dipingo nei miei quadri. Nei miei quadri, qui in questo posto è dove voglio finire, in questa terra, nello spazio, in questo cielo, in quest'acqua, dentro il mio cuore, dentro di me, nelle mie tele. È lì che voglio rimanere. Io voglio rimanere qui, in questi dipinti. Io lo sai. Lo sai perché dipingo i fiori? Per non farli morire. Morire. I miei bambini. No, per Diego non è importante il bambino, il nostro bambino. No, per lui non è assolutamente importante. Il bambino mai nato è solo mio. Tutto mio. Thank you. Vieni qui vicino a me. E ti voglio confidare un segreto. Ho cambiato la mia data di nascita. Sì. Io non sono nata nel 1907, no? Per tutti adesso io sono nata nel 1910, l'anno della rivoluzione messicana. Ma no, amica mia, non essere sciocca. Ma non voglio calarmi gli anni, non voglio sembrare più giovane, no. Lo faccio perché voglio essere una figlia della rivoluzione messicana. Ho fatto bene, no? È vero? Anche Diego, sai? Anche Diego non crede in Dio, ma crede nella rivoluzione e crede anche in Picasso. A proposito, senti, hai presente quegli orecchini a forma di mano? Me li ha regalati Picasso. Ti piacciono? Ah, preferisci quelli coi coralli? Oppure no, quelli coi turchesi. Ah, ho capito, quelli grandi, quelli d'argento. Ti piacciono tutti. Ma lo sai che anche a Pio Citas piacevano tutti i miei gioielli. Ma non dirmi che non sai chi è Pio Citas, Barbetta! Ma sì, è il signor Trotsky, è viejo! Ah, Pio Citas, piacevano anche le mie gonne lunghe, e anche i miei occhi, e anche le mie sopracciglia! Anche a te piacciono, amica mia, vero? Dicevi che sembravano una rondine in volo, che quando io mi svegliavo e aprivo gli occhi, le ali della rondine prendevano a volare, Pio Citas! Ma lo sapevano tutti di me, di lui! Sì, di me del vecchio! Tutti meno Diego, sì? E il signor Lev Trotsky mi amava. Io no. Non lo amavo. Sai, è stata mia sorella Cristina che mi ha prestato la casa per incontrarlo di nascosto. No! Il signor Trotsky era un uomo molto intelligente, era un uomo molto severo, ma era anche un uomo, molto uomo. Nascondeva lettere nelle pagine dei libri che mi dava da leggere, e quando il libro con la lettera passava dalla mano del signor Trotsky alla mia, e con noi c'era Diego, oppure c'era Natalia, sua moglie, io provavo, ecco, io non so come spiegarlo, io non so, una specie di, ecco sì, un misto di soddisfazione e di eccitamento. Davanti a loro, per me quello era tradire. No, non dopo, quando eravamo stati insieme, no. Dopo che io ero stata con lui, mi sentivo più leggera. Mi pareva che anche le mie gonne lunghe fossero diventate più leggere, quasi di velo, che si sollevassero al soffio del vento. E così io mi sentivo come una ragazza creola al primo ballo. Ed è proprio così, sai, che mi sono dipinta per lui. Sì, quando gli ho regalato il mio autoritratto. Baila, Frida, baila! Te vayas. sperava il porvenire. Sì, io te obbiera dicio no. Che giorno è oggi? Non lo so. No, non dirmelo, ti prego. Non, in fondo io non lo voglio sapere. Stamattina mi sono sporcata le mani, sai. E il vestito di vernice. È la prima volta che mi succede. Non mi riesce più di dipingere come prima. Non c'è più ordine né equilibrio nella mia testa. Il pennello mi sfugge dalle mani a fretta. Ha molta fretta, troppa fretta, va più veloce di me, dei miei pensieri. E io non riesco più a stargli dietro. Nei miei quadri, sai, nei miei quadri c'è tutto, c'è pioggia, sole, c'è la notte, il giorno, c'è il deserto, la giungla, c'è la vita. E c'è la morte. La morte. Svegliandomi ho visto che le dita del mio piede erano diventate nere come la notte, nere come l'inchiostro, nere come un ragno orrendo. E ieri ho chiesto a Diego perché. Ma perché, Diego, devo vivere ancora? Dimmi, a che scopo? E lui mi ha risposto: per far vivere me. No, non è il marito di nessuno e non sarà mai di nessuno. Diego è un bugiardo, come tutti i poeti, come tutti i bambini. Ma per lui vivere, sai che cosa significa? Significa desiderare, mangiare, amare, dormire, stare solo, stare in compagnia, volermi bene e stare lontano da me. Questo vuol dire essere sua moglie, proprio così. Ma lo sai che Diego mi è sempre piaciuto, mi è sempre attratto, anche se all'inizio, devo dire la verità, mi faceva un po' paura. Pensa un po' che cosa buffa. Lo spiavo da tanto, sai, sì, da quando andavo a scuola, da quando avevo 12 anni. Ah, con lui c'era sempre una fila di modelle sotto i ponteggi che andavano, venivano, venivano e andavano. Ne aveva due, in particolare in quel periodo, Lupe e Naui. Io per fargli dispetto mi nascondevo dietro una colonna e gridavo: Diego! Diego, arriva Lupe! Quando c'era Naui e quando con lui c'era Lupe, io gridavo: Diego, attento, attento, attento! Arriva Naui! Le mie compagne mi prendevano in giro, mi dicevano: Frida, ma come fa a piacerti quel panzone? E io pensavo tra me e me: un giorno con quel panzone farò un bambino. E loro dicevano: ma Diego è sporco, Diego è brutto. No, no, no, no, no, non importa, dicevo io. Io lo laverò e poi lo asciugherò e poi lo bacerò e poi e poi e poi. Anche adesso, sai, io lo lavo, lo tengo ben pulito, lo striglio, lo sfrego come un orso arruffato. Comunque, quella volta da bambina avevo già deciso. Lui sarebbe stato mio. Così mi sono presentata sotto le impalcature. Ah, c'era Lupe, che nel frattempo era diventata sua moglie, che stava seduta sotto le impalcature facendo l'uncinetto. Io ho fatto finta di non vederla, sono passata oltre, ho guardato lui invece, così con il mento in su, talmente in su che quasi mi si torceva il collo. Ti posso guardare mentre lavori? Gli ho chiesto. Sì, bella signorina, mi ha risposto. E lui e io sono rimasta lì incantata a guardarlo per ore. Dopo un po' Lupe si è alzata nervosa e ha cominciato a girarmi intorno, borbottato qualcosa contro di me che io non capivo. Ma io sono rimasta lì, ferma, con il mento in su, e guardavo in alto, che quasi toccava l'impalcatura, e con lo sguardo in alto, sempre più in alto, sempre più in alto. Avevo 12 anni e sono rimasta lì per 3 ore. E poi ho detto: buonanotte, signor. E me ne sono andata. Ah, dopo quella volta l'ho incontrato ancora, ma io ero diventata grande ormai. Lui invece no, era sempre lì, sui ponteggi. Ricordo la sua pancia enorme, sospesa per l'aria, sembrava una mongolfiera. Diego! Diego, per favore, puoi scendere giù di lì un momento? Devo farti vedere una cosa. E lui è sceso e io gli ho mostrato i miei disegni. Mi piacciono, ha detto. No, no, no, no, no, no, Diego, no, ti avverto, io non sono venuta qui in cerca di complimenti, no, io lo so che sei un Don Giovanni, cosa credi? Devi dirmi quello che pensi veramente, veramente. Hai talento. Davvero? Allora io posso continuare a disegnare? Certo. Diego! Diego, ascolta, per favore, ti prego, ti scongiuro, puoi venire a casa mia domenica prossima? Lo so che la domenica tu non lavori. Ti faccio vedere le altre cose che ho disegnato. Vivo laggiù, nella casa blu, a Coyacán. E lui è venuto, e poi è tornato un'altra volta, e un'altra volta ancora, e ancora, e ancora. Mio padre gli ha detto, e io ero dietro alla porta nascosta che origliavo, quindi ho sentito benissimo. Diego, Stai attento a Frida. Mia figlia è un diavolo. Diego l'ha guardato con un sorriso e poi ha risposto: sì, lo so. Frida è un diavolo. Signore di una certa età. Ma lo sai, Diego portava lo smoking a Detroit. Io non ero affatto d'accordo, non mi piaceva, ma lui diceva: un vero comunista deve essere il più elegante di tutti. E se qualcuno lo accusava di lavorare per un paese capitalista, lui rispondeva: la mia arte è come il prosciutto, la mia arte nutre la gente. Cosa? Cosa facevo io in America? Beh, andavo al cinema, io adoro andare al cinema, a vedere Tarzan, mi piace da matti Tarzan, e poi andavo in giro per i negozi, e poi andavo ai concerti di musica classica, solo che io e Diego a sentire quella musica, ma ci veniva sonno e ci addormentavamo, e poi andavo ai party. Oh, i gringos non fanno che passare da un party all'altro, sai? Tutto per loro si risolve con i party. Dalla vendita di un quadro alla dichiarazione di amore a una signora. Passano il loro tempo. a sorseggiare piccoli cocktails, perché non sono mica capace a ubriacarsi sul serio come facciamo noi messicani con la tequila. Che vergogna, gli americani. E quando non ce l'ho più fatta di tutti quei party e ho deciso di tornare in Messico, ho dipinto il mio vestito vuoto là, sospeso nel cielo di Manhattan, dove abitano i più ricchi del mondo, ma anche i più poveri del mondo. Posso trattenerti. Adesso ti prego, ti scongiuro, fermati ancora un momento con me. Io ho bisogno di raccontarti una storia. Lo so benissimo che tu la conosci già, questa storia, ma a me fa bene, sai? Sì, fa bene poterla raccontare. Più io la racconto, più più mi sento capace di dipingere ancora qualcosa di buono, sai? Hai ancora un po' di tempo per me? ¡Volveré! l'aquilone volato fuori dal finestrino giace a terra intatto, come se niente fosse successo. E di lacrime è fatto anche l'amore. Tu hai sempre detto che il pianto si è trasformato in cemento nelle tue vene, e io lo so che mi puoi capire, come adesso io capisco te, Chavela. Non sé che tiene las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, está llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que está llorando. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de un campo lirio. De mi llorona, llorona, llorona, de un campo lirio. Adesso solo voglia di dormire, amica mia, dormire, dormire, dormire e dimenticare, dormire e creare, dormire e viaggiare. Domani, quando questa mia gamba non ci sarà più, e indosserò stivali rossi e cucirò frange d'oro e campanelli, così quando la mia gamba finta si muoverà ci sarà musica, tanta musica, soltanto musica intorno a me, e un inno di gioia, e io riderò, sì, riderò, riderò. Ma io adesso sto male, sai, fa caldo, va, fa troppo caldo in questa stanza. Albero della speranza, mantienimi saldo. La notte guarda, sta scendendo su di me. Ma cosa sta succedendo? Tutto va a rovescio in questa stanza. Il sole, la luna, i piedi e Frida. Io mi sto disintegrando. Aspetta, ti prego, non te ne andare. No, ti prego, non voglio che vai via, Ciuppai, ma è così, è vero che vuoi essere chiamata Ciavela? Cupaima, l'ultima sciamana. Oh, come dici tu, colei che custodisce la memoria di un popolo. Se è così, Cupaima, custodisci anche la mia morte e la mia memoria, allora. No. No, ti prego, non andare via, resta ancora un po' con me. Perdonami, lo so, io conosco il delirio, la canzone, io conosco il monologo, il grido, ma non conosco il dialogo. Sarà perché, vedi, da tanto tempo ormai la morte si è adagiata sul mio letto. E allora io ho cominciato a frequentarla, io la vedo, la carezzo, io dormo con lei e la festeggio. È diventato un gioco, sai? Vedi, io credo che prima ancora di nascere, morte e vita si confondano. Forse perché la vita non è altro che nostalgia della morte. Tu dicevi sempre che la morte sa essere bellissima ed è la vita che sa essere puttana. Ma tu no, tu non puoi morire, no, perché tu sei una sciamana e quando sarà il momento di andare te ne andrai, sì, te ne andrai lontano, tu te ne andrai altrove. Luz de luna, pues desde que che te fuiste, noi te nido. Quando ero bambina, io avevo un'amica, ma non un'amica vera, no, un'amica dentro la mia testa, un'amica inventata. Io avevo 6 anni e c'erano dei giorni che io restavo chiusa nella mia camera per scappare dagli altri bambini, che mi prendevano in giro perché a causa della poliomielite io avevo una gamba più piccola dell'altra. Allora io alitavo sopra il vetro della finestra della mia stanza e con il mio dito disegnavo una porta. E con la mia immaginazione uscivo da quella porta con grande gioia e attraversavo veloce tutto lo spazio che si vedeva di fronte a me, fino a raggiungere una lateria laggiù in fondo la via, che aveva un'insegna con scritto un nome, Pinzon. E io entravo attraverso la O di Pinzon e fuori dal tempo scendevo nelle viscere della terra dove la mia amica immaginaria mi aspettava sempre. Io non ricordo il suo aspetto, ma ricordo, ecco, la sua allegria. Lei rideva sempre, senza emettere nessun suono. Era agile, danzava come se lei non avesse alcun peso. Io la seguivo in ogni movimento e mentre lei danzava le raccontavo i miei cruci segreti. No, non ricordo, ma io sono sicura di una cosa, che lei sapeva tutto di me, anche se lei non mi ha mai risposto, anche se lei non ha mai parlato, anche se lei non ha mai emesso nessun suono. E quando ritornavo alla mia finestra, nella mia stanza, entravo per la stessa porta disegnata sul vetro. Per quanto tempo? Ma per quanto tempo ero stata con lei? Io non lo so, forse un secondo, no, forse migliaia di anni, ma io ero felice. E con la mano cancellavo la porta disegnata sul vetro e tutto intorno a me spariva. Lei, la bambina muta, e io, la bambina zoppa. Non l'ho mai più rivista. Ancora adesso, sai, io guardo fuori dalla finestra della mia stanza e la cerco. Ma come sarà adesso? Chissà se ha avuto dei bambini, chissà se ha un marito. E chissà se è ancora viva. Ma chissà se danzerà ancora nell'aria, se danzerà ancora nell'aria per me. Adesso vorrei scrivere con il mio dito sul vetro della finestra della mia stanza i nomi delle donne che io ho amato: Maria, Teresa, Elena, Machita, Irene e Tina. E naturalmente il tuo nome, Chavela. Tu che portavi la pistola e sparavi, tu che fumavi il sigaro, tu che bevevi tequila, tu che correvi dietro alle donne. Ma adesso sei qui. Tu sei qui solo per me, vero? Tu mi hai amato, vero? Io credo di sì. Oh, lo so che un giorno direi che ci siamo amate come solo due artisti sanno amare, che senza alcuna pretesa, stando insieme, noi abbiamo imparato molte cose, parola dopo parola, giorno dopo giorno, siamo riusciti ad afferrare il cielo con le mani. Amica mia, ma tu ti meriti un amore che ti voglia spettinata. Tu ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura. Ti meriti un amore che voglia ballare con te. Tu ti meriti un amore che ti ascolti cantare. Ti meriti un amore che spazzi via le bugie, che ti porti sogni, caffè e poesia. Non rispondi, ma hai ragione. Dai, non dire niente adesso, no? Non ce n'è bisogno. Tu canterai per me al mio funerale. Io spero solo che la mia uscita di scena sia gioiosa e felice. E spero soprattutto di non tornar mai più qui. Solo questo. Solo questo. Volevo dirti. Ehi, lo sai? Hanno deciso di tagliarmi la gamba. Sta andando in cancrena. Domani la staccheranno e poi la seppelliranno lì, in giardino. E sopra la sua tomba spunteranno fiori e frutta. A me cosa servono le gambe? Per me le ali sono più che abbastanza, non credi? Viva la vita, Chavela! Viva la vita! Viva! Io me canso de llorar y no amanece. Io non sé se maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si Lo spettacolo Viva la vida, Frida Kahlo e Chavela Vargas, di Valeria Moretti, con Francesca Bianco ed Eleonora Tosto, alla chitarra Matteo Bottini, regia Carlo Emilio Lerici. Con Carlo Emilio Lerici, regista dello spettacolo Viva la vida, Frida Kahlo e Chavela Vargas, di Valeria Moretti, con Francesca Bianco ed Eleonora Tosto, alla chitarra Matteo Bottini, in streaming dal 4 al 17 gennaio 2021 all'interno della programmazione del Teatro Belli. Millo, ben trovato. Ciao, ben trovato, ben trovati tutti. Eh sì, stiamo facendo questo tentativo di tenere duro un avamposto di difesa delle posizioni fino a quando si potrà riaprire, per non scomparire del tutto, ecco. Per carità, io poi so che c'è tanta gente che è contraria allo streaming, però credo che lo streaming può funzionare, alcuni prodotti poi possono funzionare meglio di altri, altri prodotti possono essere costruiti per lo streaming, per cui perché fasciarsi la testa prima, proviamoci. E secondo me questo Viva la vida su Frida Kahlo e Chavela Vargas, secondo me ben si presta allo streaming, perché è uno spettacolo di parola, di emozioni, di musica e di suoni, quindi si può ascoltare anziché guardarlo e funziona lo stesso. Come lo presenteresti a chi ci ascolta? È proprio una cavalcata dentro quel mondo di quell'epoca, il mondo di Frida Kahlo e delle parole di Frida Kahlo, le emozioni che sa dare con tre parole Frida Kahlo, che ha la stessa potenza evocativa dei suoi quadri, riesce a trasmetterla nelle parole. Quindi le parole sono fortissime e le canzoni di Chavela Vargas sono formidabili. Io le conoscevo poco, per fare questo spettacolo mi sono avvicinato ancora di più e ho scoperto un mondo di musica bellissima che racconta tutto il Centro America e il Sud America magnificamente. Come ha avuto origine questo lavoro? Volevamo fare questa operazione su Frida Kahlo con Valeria Moretti, che aveva scritto un testo su Frida Kahlo dedicato solo a lei, però a me, io volevo andare un po' oltre perché mi sembrava che teatralmente fosse un personaggio un po' inflazionato Frida Kahlo, era stato fatto un po' in tutte le salse, allora volevo prendere un aspetto suo particolare, e questo rapporto di amicizia profonda che aveva avuto con Chavela Vargas ci dava l'occasione di raccontare insieme alle parole di Frida Kahlo, a raccontare anche una grande cantante di cui invece si sa molto poco teatralmente, perché poi gli appassionati la conoscono molto bene. E quindi ho detto, ma forse riusciamo a unire una cosa e costruire un qualcosa che racconti anche qualcosa di diverso, che non abbiamo già sentito. E da quest'idea è nato lo spettacolo, e poi ci siamo trovati con Francesca, vabbè, con cui lavoro sempre, poi con Eleonora Tosto, che è una cantante straordinaria, e Matteo Bottini, che è un chitarrista che non conoscevo, era amico di Eleonora, con cui abbiamo costruito la colonna sonora, perché Matteo non si limita a suonare le canzoni di Chavela Vargas rielaborate, riarrangiate da lui, ma accompagna tutto lo spettacolo e anche le parti recitate con una colonna sonora creata da lui durante le prove, quindi è stato un lavoro di costruzione molto bello, di costruzione di emozioni sonore fatto giorno dopo giorno, e per cui credo che alla fine il risultato arriva perché c'è un lavoro genuino dietro, ecco. Rispetto al rapporto tra queste due artiste, su cosa avete voluto centrare l'attenzione? In realtà il fatto che erano due donne che vivevano le passioni in modo totale e integrale, e questa era la cosa che le accomunava, probabilmente. Delle passioni formidabili e capaci di travolgere ogni cosa, per cui Chavela Vargas a un certo momento viveva insieme a Frida Kahlo e a Diego Rivera, hanno vissuto assieme, non so nemmeno che tipo di rapporto ci fosse tra di loro, però era una unione, una passione che si consumava assieme, infatti abbiamo usato anche una fotografia bellissima che le ritrae insieme, che a me colpisce e mi emoziona, queste due donne sdraiate una vicino all'altra che sorridono, credo che sia un'immagine bellissima che racconta con una foto quella che è stata la loro amicizia profonda, che poi Chavela Vargas ha raccontato in tardissima età, poco prima di morire, poi l'ha omaggiata in qualche modo partecipando al film su Frida, dove canta un pezzo, ovviamente dentro una locanda, dove beve come ha sempre fatto nella sua vita. Molto bello quel frammento di partecipazione nel film su Frida Kahlo. Che percorso ha avuto finora questo spettacolo? Noi l'abbiamo fatto a Roma in più occasioni al Teatro Belli e poi siamo stati lo scorso anno, l'abbiamo portato in giro anche nel 2020, purtroppo il Covid ci ha fermato molte delle date possibili, siamo stati in tournée tra la Puglia, la Calabria, il Nord Italia, un po' di date le abbiamo fatte sempre con un'accoglienza molto positiva, quindi è uno spettacolo che pensiamo di continuare a proporre, lo riprenderemo sicuramente a Roma e in tournée appena sarà possibile. Viva la vida, Frida Kahlo e Chavela Vargas, in streaming dal 4 al 17 gennaio 2021 all'interno della programmazione del Teatro Belli di Roma. Un saluto e un ringraziamento al regista Carlo Emilio Lerici. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie, a presto e auguri a tutti. Con Manuela Kusterman per presentare la lettura del romanzo La vita, istruzioni per l'uso, di Georges Perec, in streaming il venerdì e il sabato dal 15 gennaio 2021. Manuela, ben trovata. Grazie, buongiorno a voi a tutti. Quest'operazione è nella programmazione del Teatro Vascello, raccontiamo un po' come si sta svolgendo la vita del teatro. La vita in teatro in questo momento praticamente non c'è, cioè siamo soltanto noi, cioè lo staff, per cercare così di mantenere il luogo ancora un po' vivo, ma chiaramente la vita di un teatro si basa soprattutto sugli spettatori che ogni sera lo affollano e quindi è quasi un luogo senza vita, infatti non ti nascondo che insomma ogni volta che entro mi viene un po' un magone, perché chiaramente la sua funzione di accogliere spettatori, di fare spettacolo ogni sera viene a mancare. Però appunto, diciamo, proprio per non morire e poi soprattutto appunto per dare anche un senso a noi e agli operatori e al nostro staff, così abbiamo cercato di fare questi streaming. Abbiamo già iniziato veramente abbastanza tempo fa, abbiamo fatto addirittura spettacoli e poi ci sono state già delle letture di racconti fatte ogni venerdì o mercoledì, ma questo è un progetto abbastanza speciale perché sarà delle letture appuntate di un romanzo molto molto interessante che appunto è La vita e istruzioni per l'uso di Georges Perec. Non so ancora quanto durerà, comunque cominciamo appunto il 15 di gennaio e si svolgerà bisettimanale l'appuntamento, il venerdì alle 21 e il sabato alle 19 e si alterneranno Alkis Zanis e me alle letture. Come mai la scelta di questo lavoro? Ma questo è un romanzo che io ho molto amato ed è un romanzo che secondo me appunto si presta molto ad essere letto a puntate, perché è un romanzo molto particolare. I capitoli sono 99, come 99 sono le storie raccontate da Queneau in esercizi da stile, perché poi loro erano stati membri dell'OP che basavano appunto le opere sull'enigmistica, sulla matematica, insomma. È un po' difficile spiegarlo, ma lui racconta la vita degli abitanti di un palazzo in una strada inventata di Parigi. Questo palazzo ha 8 piani, tantissime camere e lui racconta appunto la vita di ogni camera e dei loro personaggi come se fossero le caselle di una scacchiera. Quindi muove questi racconti come le mosse del cavallo di una scacchiera, praticamente in 100 storie, ma ogni appartamento, a parte la storia dei personaggi e dell'appartamento in sé, contiene altre storie che a loro volta possono contenere altre storie, ma il tutto poi è anche basato sulla costruzione di un puzzle, Soltanto alla fine si capirà bene la fine del puzzle. I capitoli sono soltanto 99, ma questo si scoprirà solo alla fine il perché. È una cosa affascinante, Calvino lo ha definito un iperromanzo. Calvino era un fan di Georges Perec e soprattutto di questo romanzo, che appunto lo ha definito un romanzo geniale, iperromanzo, proprio perché è un romanzo che contiene tante tante storie, tanti racconti, tutto basato sull'enigmistica e sul gioco del pazzo, per cui è veramente affascinante. Cosa hai apprezzato della scrittura? Beh, la maniacalità di Perec mi affascina la sua descrizione minuziosissima appunto di ogni particolare che sta nella stanza, di ogni oggetto. E poi questo fatto appunto, come nelle Mille e una notte, che ogni storia ne contiene un'altra, per cui attraverso di lui conosci storie a volte inventate, a volte vere, non sai mai qual è la verità e qual è la finzione, che parla di anche tanti personaggi. Insomma, a me mi affascinano, per esempio, io una delle prime letture che ho fatto fare in streaming è stato di Wilcock, La biblioteca degli iconoclasti, perché anche lì Wilcock racconta storie di scienziati, filosofi, scrittori, maghi, che non si sa se sono veri o falsi, e questo è molto affascinante, insomma, ti porta in un mondo veramente irreale, ma realissimo nelle descrizioni, per cui insomma io lo trovo geniale, è un romanzo geniale e proprio per questo l'ho scelto. E spero che gli spettatori si appassionino di volta in volta allo svolgimento e allo svelamento del perché Perec racconta tutto questo. Ogni appuntamento quanto durerà? Ci saranno letture da un'ora, ci saranno letture da 50 minuti, perché i capitoli non sono tutti uguali, anche questo è molto affascinante. Per cui io ho raggruppato questi capitoli in base, non dico al tema che non c'è, ma insomma la tipologia, per cui saranno molto variati e ci saranno anche delle proiezioni che illustreranno, perché questo libro è anche pieno di tantissime illustrazioni, disegni, perché parla molto anche di enigmistica oppure di cose trovate, per cui ci sono anche delle illustrazioni che io farò riprodurre in video, quindi sarà anche un aiuto per gli spettatori per capire meglio. E poi cercherò di far riprodurre questo grande palazzo, questi 8 piani con tutti gli appartamenti. Forse non sarà proiettato sempre, però ogni tanto si proietteranno in modo da far capire in quale appartamento in quel momento si svolge quella storia. È un modo per far conoscere questo geniale artista abbastanza poco conosciuto, insomma. Per tutte le informazioni, come riferimento c'è il sito internet del Teatro Vascello? Certo, sul Teatro Vascello c'è tutto, c'è anche una spiegazione, appunto, ho cercato così di raggruppare in una paginetta la spiegazione di quello che più o meno è il romanzo. Si può già prenotare, lo streaming è gratuito come tutti gli altri nostri, e quindi insomma vi aspettiamo numerosi al primo streaming, che sarà il 15 di gennaio. La prima lettura sarà fatta da me e poi si alternerà con me Alkis Tsanis. Il romanzo La vita, istruzioni per l'uso, di Georges Perec. Un saluto e un ringraziamento a Manuela Kusterman che curerà la lettura. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, grazie mille, grazie a voi. Con Carlotta Vitale, una delle curatrici del libro Aware, la nave degli incanti, progettare e realizzare idee e sogni d'arte collettiva oggi. Carlotta, ben trovata. Ben trovato e ben trovati tutti, buona giornata. Ci racconti di questo progetto? Aware è un progetto che è nato nella nostra programmazione di Ugo Malacca Teatro, di cui sono cofondatrice e mi occupo della direzione artistica, più di 3 anni fa. Abbiamo applicato uno dei bandi proposti dalla Fondazione Matera 2019, perché noi siamo radicati a Potenza, ma inevitabilmente abbiamo partecipato al processo di sviluppo dell'intera regione verso questa capitale europea della cultura. All'epoca appunto candidammo questo progetto che vedeva vedeva al centro del viaggio una nave, Potenza è una città di montagna, quindi con le navi a poca dimestichezza, se non fosse per il fatto che ce n'è una che viene chiamata così, costruita negli anni 2000 all'interno di un quartiere che si chiama Rione Cocuzzo, ma è chiamato anche Serpentone, caratterizzato da questi palazzi altissimi classici dell'edilizia degli anni 70, di edilizia popolare, e che appunto nel 2000 furono oggetto di riqualificazione attraverso la costruzione di questo manufatto, quest'opera d'arte che viene chiamata la nave e che in realtà ha rappresentato poi un simbolo di degrado per il quartiere, perché non è stata accettata né dal quartiere né dalla città ed è stata, diciamo, lasciata al suo destino. Ed è una struttura architettonica di cemento piuttosto invasiva, che poi è diventata un po' un mezzo tra una specie di parco, uno spazio complesso da identificare, anche da rintracciare. Da quando abbiamo iniziato a lavorare nel quartiere, dal 2012, dove abbiamo proprio la nostra sede operativa e gli uffici, l'abbiamo messa un po' al centro dell'esplorazione del dialogo che noi cerchiamo tra gli spazi, la città, il teatro e le persone. Inevitabilmente è diventata l'oggetto della nostra ricerca. In questi anni, appunto, dal 2017 fino al 2019, abbiamo immaginato che questa nave, che era la nave delle persone che lavorano intorno a questo concetto dell'arte che attiva i luoghi e i territori, potesse veramente viaggiare, potesse veramente muoversi da Potenza verso Matera e attraversare un pezzo di Basilicata lungo la strada statale Basentana, che di fatto attraversa la Basilicata e attraversa i suoi mondi totalmente diversi, i suoi ambienti, i suoi paesaggi, dalla montagna al fiume, al deserto, ai calanchi, fino ai sassi di Matera. Quindi nel libro noi raccontiamo questo processo, raccontiamo che cosa è accaduto negli anni, che tipo di metodi abbiamo voluto sperimentare per coinvolgere i cittadini in questo grande esercizio di immaginazione e di fatto, mettendo insieme le comunità che noi abbiamo voluto contattare in questo viaggio verso Matera, sono state 7 in tutto, comprese insomma le piccole comunità che costellano il viaggio verso Matera, che sono state Albano di Lucania, Calciano, Liveto, Lucano, Garaguso, Ferrandina e poi Matera, abbiamo, diciamo, utilizzato questa grande metafora, questo dispositivo di coinvolgimento, di narrazione di questa nave che arriverà nel 2019, per, attraverso una ricerca proprio di taglio antropologico e non solo, insomma, i frutti di questa ricerca sono per esempio rilasciati in Creative Commons attraverso 5 ebook che sono scaricabili dal nostro sito, e abbiamo insomma in questo primo viaggio senza la nave ma solo con le persone, abbiamo raccolto idee, bisogni, visioni, paure che poi hanno alimentato sia la costruzione della drammaturgia della storia, perché questa nave è riuscita a viaggiare grazie ad una storia, la storia di questa bambina Sofia, che poi nella realtà era Sara La Rocca, una bimba di 9 anni che studiava teatro con noi già da quando ne aveva 4. Poi queste storie hanno alimentato la grande storia in 5 episodi che è stata prodotta e ha attraversato poi di fatto realmente le comunità. Per cui noi abbiamo voluto con il libro raccogliere il modo in cui abbiamo lavorato, come abbiamo fatto intrecciare il teatro, l'arte partecipata, l'innovazione sociale, la ricerca con le persone, perché pensiamo intanto che quello che è accaduto qui in questa regione durante diversi anni, da quando Matera è stata nominata capitale nel 2014, che cosa ha significato e che cosa ha mosso nella regione, negli abitanti della regione, questo processo verso la capitale europea della cultura. Infatti per esempio all'interno c'è il contributo di Paolo Montemuro, che è uno dei fondatori di Matera Hub, che è un Europe Direct che si trova a Matera e che in 10 punti racconta che cosa può significare essere capitale europea, come anche ci sono i contributi di chi ha scritto la storia, di chi c'è stato mentore, di chi ha visto da quando siamo andati in tournée poi che cosa è accaduto realmente, come il frutto di diversi anni di lavoro e diverso tempo dedicato alla costruzione di un progetto poi si tramuta in spettacolo. E poi ovviamente c'è tutta una parte che riguarda la metodologia di ricerca con le persone, poi che cosa ha prodotto, cioè poi questa nave che cosa è diventato, che poi è diventata veramente una nave viaggiante su due carri da 13,50 l'uno, in che modo è stata costruita, ci sono i disegni tecnici di questo grande oggetto costruito in 10 cubi di plexiglass e ferro che si autoillumina, che può videoproiettare, che può essere attraversata perché è alta fino a 9 metri, come ha viaggiato questo oggetto, che cosa è successo nelle comunità e che storia abbiamo raccontato. Diciamo, ce lo siamo immaginato come uno strumento che potesse essere utile agli operatori che lavorano con l'arte, lavorano con il teatro e credono nel teatro proprio che sia uno strumento che ci aiuta ad essere più consapevoli di quello che ci circonda. Infatti poi la parola matrice è stata proprio aware, nel senso della consapevolezza, anche proprio come lo intendiamo noi teatranti, cioè consapevolezza del proprio corpo, della propria muscolatura e quindi anche proprio della propria mappa fisica e mappa immateriale. Ci abbiamo messo un anno per raccogliere gli sguardi critici, i contributi di chi ha seguito il progetto da dentro, di chi l'ha vissuto, anche dei ragazzi che si sono formati con gli artisti che sono arrivati in Italia dalla Francia negli anni in cui lavoravamo all'ideazione e che poi sono stati l'equipaggio della nave, che venivano chiamati i 400. Ispirati ai 400 colpi di Truffaut, perché appunto sono tutti quanti adolescenti che hanno vissuto questa grande esperienza di cambiamento della percezione di un quartiere, della città, dei paesaggi che hanno attraversato, che sono stati tutti periferici e marginali rispetto ai centri di produzione. Noi ci siamo fermati a fare spettacolo nelle zone industriali, ai piedi delle montagne, nella stazione fantasma di Matera, e quindi hanno potuto osservare anche un viaggio dentro un territorio così talmente sovraesposto anche dal punto di vista della narrazione turistico, anche l'hanno potuto, diciamo, vivere in maniera tangente, ma a bordo di un oggetto come se fosse un'astronave, in realtà, che arrivava in luoghi misteriosissimi e poco esplorati. Ci sono anche le loro parole dentro, che sostanzialmente parlano della relazione che hanno avuto con questo oggetto misterioso e di come ha modificato anche la percezione di loro stessi di fronte al pubblico. Insomma, questo viaggio ha raccolto più di 2000 spettatori, oltre ai 423 che hanno partecipato attivamente alla costruzione. Per cui il libro è veramente uno strumento per continuare a far viaggiare questa esperienza. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Lo potete trovare sul sito dell'editore, Editoria e Spettacolo, lo potete anche trovare online su Amazon, a Potenza in questo momento si trova nella libreria senza nome e stiamo lavorando alla distribuzione anche fisica altrove. Aware, la nave degli incanti, progettare e realizzare idee e sogni d'arte collettiva oggi, un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici del libro, Carlotta Vitale. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, grazie. Con Olimpia Bonecchi dell'associazione MACMA per presentare il Festival Abbecedario del Reale, online dal 28 novembre 2020 al 16 gennaio 2021. Olimpia, ben trovata. Ciao, grazie. Ci racconti? Abbecedario è la prima esperienza di festival online di MACMA. Abbiamo deciso di fondere le nostre progettualità principali, che sono Sguardi sul Reale Festival e la Rassegna Cinema 9,5, in una cosa totalmente nuova sul web, appunto date la situazione attuale di impossibilità di usare gli spazi fisici. Abbecedario è una rassegna strutturata sulle parole, appunto, Abbecedario del Reale, quindi parole per analizzare, conoscere e indagare la realtà. Ogni parola è un contenitore di film, di interventi di ospiti, di autori, di presentazioni di libri, di progetti musicali. E appunto è iniziata il 28 novembre, ogni fine settimana escono delle parole, vi invitiamo a scoprirlo tutto su lefornaci.org. Come mai questa scelta multidisciplinare? perché rispecchia un po' alla natura del lavoro, della progettualità, della ricerca di Magma, che è quella di fondere differenti linguaggi artistici per indagare e raccontare il reale. Quindi da sempre, sia negli eventi che nelle nostre produzioni audiovisive originali, cerchiamo una commistione tra i diversi linguaggi artistici e i diversi mezzi di comunicazione. Come si articolano gli eventi online? I film sono visibili a tempo, occorre accedere e registrarsi con una semplice procedura che viene indicata via via sotto i film. Dipende dai titoli, stanno online minimo 48 ore fino a un massimo di una settimana. Gli interventi invece degli ospiti e degli autori, le interviste, le presentazioni di libri sono online dal momento in cui escono e rimangono per sempre, quindi è possibile rivedersi tutti gli interventi e tutti i contenuti anche delle lettere precedenti a quella di oggi per molto tempo ancora, insomma. Ci dai tutti i riferimenti in chiusura? Abecedario del Reale lo trovate sul sito leforaci.org, potete seguire gli aggiornamenti sulle nostre pagine Facebook e Instagram Magma e Le Fornaci Auditorium, che è la nostra casa, diciamo, la struttura che solitamente ci ospita, e per ogni richiesta di informazione trovate tutti i contatti oppure potete scrivere a info@magma.it. Il Festival Abecedario del Reale, online dal 28 novembre 2020 al 16 gennaio 2021. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Olimpia Bonecchi, dell'associazione Magma. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, grazie mille, a presto, ciao. Con Giovanni Pietrangeli, uno dei curatori del numero 53 della rivista Zapruder, dal titolo M'impiccio, potere, popolo e partecipazione politica, in diretta Facebook dalla pagina di Zapruder, martedì 12 gennaio 2021. Giovanni, ben trovato. Grazie, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Per chi non conoscesse la rivista, descriviamola. Zapruder è un progetto di rivista e storia della conflittualità sociale che va avanti ormai da quasi un ventennio, tant'è che il prossimo numero 54, dedicato ai 20 anni di Genova 2001, sancirà anche un po' un ricordo di quel percorso che ha portato alla nascita della rivista, appunto dopo le giornate genovesi del G8. È una rivista pubblicata da Mimesis, completamente auto-organizzata, autofinanziata, che vive attraverso l'attività di una redazione multimediale e di attività associative, perché è pubblicata fondamentalmente attraverso il lavoro di un'associazione che si chiama Storie in Movimento. Questo numero di cosa si parla? È un numero che ha avuto il suo primo passaggio nell'estate del 2019 con una call for paper. Era nato come un numero sulla democrazia, cioè un numero che cercasse di indagare tutti quei nodi critici della partecipazione della cittadinanza ai processi decisionali, e che attraverso questa call, quindi una chiamata a inviare contributi, articoli e idee, si è trasformato in un qualcosa di un po' più complesso, come poi effettivamente è la democrazia, ovvero una riflessione approfondita su quelle che sono le dimensioni che costituiscono poi i processi decisionali, ovvero gli attori, quindi il popolo, la cittadinanza, l'esercizio del potere che possono svolgere attraverso la partecipazione politica. Quindi queste tre dimensioni sono diventate un po' gli assi lungo i quali poi abbiamo cercato di definire un quadro attraverso esempi tratti dalla storia più o meno recente, da fatti avvenuti ai quattro angoli del mondo, anche in tempi relativamente, insomma, vicini a noi, costruire le dimensioni della democrazia, sia in termini, diciamo, propositivi, quindi modelli di sperimentazione assembleare, come è avvenuto nelle tante piazze che si sono date all'inizio degli anni 10 del 2000, in giro per il mondo, attraverso assemblee, esperimenti di comunicazione politica alternativa e di partecipazione diretta, ma anche i nodi più critici, come può essere stata la gestione della pandemia in alcuni dei paesi che sono stati tra quelli investiti dal Covid-19. Questo titolo in romanesco sembra una citazione di Nino Manfredi Ciceruacchio in uno dei film di Luigi Magni dedicato alla Repubblica Romana. Non è un caso, ovviamente, hai colto bene il riferimento, infatti se ne parla nell'editoriale, essendo uno dei temi affrontati nel numero, tra l'altro quello delle grandi rivoluzioni del XIX secolo, tra cui anche la Repubblica Romana, che viene raccontata attraverso i fogli volanti e gli appelli che venivano stampati e che sono oggi conservati in un fondo molto ricco presso la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma, si parla appunto di partecipazione a partire da un'epoca nella quale la rivendicazione di cittadinanza, insomma, diciamo, il passaggio dal suddito al cittadino era incarnato anche in questi esperimenti rivoluzionari come quello della Repubblica Romana del 1849, di cui Ciceruacchio, come penso ben sanno gli ascoltatori e le ascoltatrici, è stato una delle figure più note che hanno influito di più anche sull'immaginario popolare, fino al film di Luigi Magni In nome del popolo sovrano, che appunto si chiude con questo monologo sull'essere umano che si impiccia, che ha comunque una necessità di interessarsi delle cose del mondo e che lo riguardano, e fare parte di questo gioco della politica, che chiaramente è un gioco anche non necessariamente facile, che può, come nel caso appunto di tanti e tante dei protagonisti della Repubblica Romana, finire anche male. Quanti sono i contributi scritti e come sono stati scelti autori ed autrici? I contributi, come al solito, si dividono in varie rubriche e sono negli Zoom, che sono i tre articoli, in questo caso sono tre, sono articoli, diciamo, più corposi e che danno un po' il quadro generale del numero. Prevalentemente tutti gli articoli sono passati quasi tutti attraverso questa call, questa chiamata a inviare contributi. Sottolineo che ne erano arrivati talmente tanti che effettivamente abbiamo anche dovuto fare una scelta. Non è stato un processo semplice. I Zoom di questo numero sono a firma di Adriano Cirulli ed Enrico Gargiulo, si occupano entrambi di come l'idea di popolo e il concetto di cittadinanza si vanno a definire, specialmente nello spazio europeo contemporaneo, in relazione ai processi migratori, quindi in questa geometria variabile dell'apertura al concetto di cittadinanza che attraverso, diciamo, i linguaggi della politica, la retorica di quelli che sono chiamati populismi, sovranismi, ma anche molto più linearmente neofascismi e nazionalismi, vanno a definire questo concetto di popolo oggi. Roberto Rabbia ci porta invece nella Russia post-sovietica, in quel processo di transizione dell'inizio degli anni 90, in cui uno dei temi al centro della discussione era proprio il conflitto fra l'idea di sovranità popolare, che è un concetto, non mi azzardo a nominare la parola in russo, rischio di dire strafalcioni, comunque è un concetto comunque di lunghissimo periodo che fa parte della millenaria storia russa, e quello di democrazia, che è invece un concetto considerato prettamente occidentale e quindi sovrapponibile a quello fondamentalmente democrazia liberale, come quella che conosciamo meglio nell'Italia del dopoguerra. Giacomo Tarascio invece fa interloquire Ernesto Laclau con Gramsci e i Subaltern Studies in una critica alle interpretazioni di quelli che sono stati i movimenti insurrezionali meridionali tra XVIII e XIX secolo, quindi diciamo fra il 1799 e le rivoluzioni del 1848, anche qui parliamo dell'epoca delle rivoluzioni. Ecco. Le immagini, c'è la nostra consueta rubrica di fotografie e apparati iconografici, riporta appunto quei tanti fogli volanti e altri prodotti a stampa della Repubblica Romana, curati e descritti da Virginia Lepri, mentre Julieta Dorin, una fotografa argentina che ormai vive in Europa e che ha partecipato al secondo incontro internazionale delle donne che lottano, le Mujeres que Luchan, a Morelia, ci porta dentro un po' la dialettica zapatista, incontro che si è tenuto l'anno scorso, esattamente proprio nel dicembre dell'anno scorso, e ci porta nella dialettica zapatista della partecipazione specialmente femminile alla politica. Le schegge sono contributi un po' meno corposi, ma comunque sempre approfonditi, e Andrea Calabretta parla della Tunisia dopo la rivoluzione dei Gelsomini, nella fase delle cosiddette primavere arabe. Giuliana Sorci descrive gli esperimenti di democrazia diretta nelle piazze parigine della Nuit Debout. e Raffaele Pavoni invece racconta Bolsonaro e come il nazionalismo brasiliano contemporaneo si è imposto dentro i social media. C'è un contributo un po' più eccentrico che racconta l'ex penicillina di Roma, quindi la Leo, la fabbrica sulla Tiburtina e gli invisibili, quelle persone che l'hanno abitata per anni in condizioni estremamente dure di abitare informale e chi le ha supportati e ha cercato di raccontarli. Mentre il 1989, un anno chiave nel racconto, no, del trionfo della democrazia liberale, almeno in Europa, cioè quell'anno di profonda transizione, soprattutto per l'Europa dell'Est, è raccontato attraverso un progetto descritto da Federica Mascetti, un progetto che sta raccogliendo interviste in tutta Europa a protagonisti più o meno noti di quel periodo di transizione. È un contributo molto interessante, invece, è Le Voci, un'intervista a Simone Pieranni, una delle figure più autorevoli in questo momento in Italia per raccontare la Cina, ci racconta i concetti di potere e controllo e democrazia come sono visti nella Cina di oggi. Questo contributo, secondo me, è molto importante perché consideriamo, questo va sottolineato, il numero è stato praticamente elaborato quasi totalmente all'interno delle fasi più dure di contenimento della pandemia, quindi in una continua riflessione con gli eventi che si definivano giorno per giorno rispetto a come i differenti governi, visioni del mondo, l'idea di cittadinanza e partecipazione della cittadinanza affrontavano un evento che per le generazioni attualmente in vita sono pressoché inediti. Un evento di questa portata a livello globale di carattere sanitario ci ha posto una serie di interrogativi che in parte sono tema di questa intervista a Simone Pieranni. R. Push dedica alcune tavole all'idea di democrazia in una rubrica relativamente nuova che è Comics, mentre con Manolo Luppichini io stesso parlo di un progetto che abbiamo curato di digital storytelling dedicato proprio alla democrazia. Insomma, un numero molto ricco, con tante sfaccettature, ma che cerca di mettere al centro appunto queste tre dimensioni che dicevamo all'inizio, quindi la cittadinanza, il popolo, chi è deputato poi a esercitare un potere politico, come esercita questo potere e quali sono i caratteri della partecipazione, sia nella storia più o meno recente, sia nella stretta attualità. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? La nostra pagina web è storiemovimento.org, su questa pagina potete trovare tutti i numeri, da dopo l'uscita, dopo un anno, abbiamo sempre diciamo rilasciato i numeri in open access, inoltre abbiamo una rivista in lingua inglese che è Zapruder World, lo potete trovare anche sui social a Zapruder World, mondo in lingua inglese, e in più Zapruder è il nostro account Facebook, ma ci trovate anche su Twitter e su Mastodon, su Telegram, un canale che permette di avere aggiornamenti, anche contributi originali che non necessariamente sono reperibili sulla rivista cartacea, che esce ogni 4 mesi e il prossimo numero è in dirittura d'arrivo per la primavera. Zapruder numero 53, un impiccio, potere, popolo e partecipazione politica, una presentazione online sulla pagina Facebook di Zapruder, martedì 12 gennaio 2021. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Giovanni Pietrangeli. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Crevi, alla prossima, un saluto, ciao. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.